troppo crudo. BUG07. Il suono libero. Qui non c'è Cerbero, soltanto un albero i cui frutti son per tutti ed in esubero. Niente sfratti né serpenti infami, composticci e saggi omaggio. Messaggio che fa il viaggio senza dazio né pedaggio. Raggio di sole in questo peggio, sollievo d'ombra nel meriggio. Armeggio e colgo quel che cresce, ne ripianto i semi subito. Vado giù d'intuito, in più gratuito, che non è solo business. Senza un filo di stress, il treno Biugi parte a tempo e fa magheggi, manco forse Georgie Best. Macina metriche, tritale liriche, va se va che è già un nuovo giorno. Intorno, odore di miracolo, l'oracolo profetizza un calo del ridicolo. Salto già l'ostacolo, rimescolo con estro in esto modo che è nuovissimo. E mossi che si muove qualche cosa in mezzo al pessimo, e gustavissimo, si sono aperte certe porte ed era ora che partissimo. Destinazione il mondo prossimo. Free sound, il suono libero. Free sound. E tu mi ascolti, li senti sti suoni, ci bastano le rispettive connessioni. Zero commissioni, zero intermediari. Siamo pari, patta, patti chiari. Come dice Alex, quanto un lago senza fango. Mi senti tipo frango, infrango. Barriere insormontabili, ma in fondo fragili. Conversi abili, agili, ma agito sul ritmo come certi pugili. Che la campana suona all'ultimo round. O perdiamo i punti o li mettiamo KO con il free sound. Free sound, free sound. Suono libero. Comuni creative per chi vive nella musica. Ti stuzzica, ti pizzica e mizzica che ritmica. Pare sappia fare, ma cane mangia cane. Ma aspetto morsi infami anche alla giugulare. Giocoliere con il verbo e con il suono. Questo è quel che sono, stereo quanto mono. Più elegante di una geisha col kimono. Cambio peggio che Shimano. E c'è chi mi sta dietro e chi mi deve star lontano. Stile strano. Mastro più che a mostro con la rima in italiano. Ritaglio spazi per il gruppo crudo, vivo nell'effimero. E ti diffondo il suono libero. Undertaker, 100% underground, copy zero, Creative Commons, free sound, BUG07, gruppo crudo, guardate tutti verso il re che adesso è nudo.